quest'ultima sta. Branclare il vadrus da quest'ultima sta e dire in cialù. Quest'ultima sta e dire in cialù. Quest'ultima sta.